Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Per soddisfare le tantissime richieste che ci sono state fatte di dare ancora voce e proporre una seconda giornata antologica de Il treno va, in cui si raccontano le mirabolanti avventure del misterioso viaggiatore genovese, quasi un novello Marco Polo del terzo millennio, che tanto fa discutere, tanto fa scrivere e tanto fa dubitare sulla reale, effettiva e concreta possibilità che lui abbia veramente girato tutto il mondo per decine e decine di anni, vi riproponiamo una antologia delle mie chiacchierate ferroviarie con Manuel Fantoni, così almeno noi ci piace chiamarlo, prendendo spunto dall'immaginario eroe di uno dei tanti film di Verdone, che raccontava di aver vissuto una vita avventurosissima, ma le sue avventure se le era soltanto sognate. Ma il nostro Marco Polo di Genova, in realtà, in quei posti c'è stato veramente, posso metterci la mano sul fuoco. Oggi parlo malissimo, mi sono voluto incamminare in treno nonostante la gravosissima e cruenta operazione che mi hanno fatto la mascella. Mi hanno aperto con il bisturi la gengiva, mi hanno perforato la mascella, mi ci hanno infilato un perno d'acciaio e adesso sto qui con la mascella gonfia, non riesco nemmeno a parlare. Ho perso il senso del tempo e del percorrere le rotaie, per fortuna incontro il mistico viaggiatore genovese. E lì lo avevo aspettato, sapevo quale treno avrebbe preso. Mi serviva un interlocutore che parlasse molto e mi imponesse di fare poche domande, perché mi fa veramente male parlare. Parlo male che mi hanno messo un perno sulla mascella. Infatti c'ho la guancia gonfia. No, scusi. Guarda, io sono pratico perché mio nonno era proprietario della Bocca Italiana, odontoiatria, e quindi è sempre vissuto in mezzo, era medico chirurgo odontoiatra. Quindi lei per i denti non ha mai avuto problemi? Ma lui mi dava un prodotto che, siccome lui era tedesco austriaco, nonostante il cognome ebreo, mi dava, si chiama 33 33 33, l'aveva inventato lui, ed era acqua distillata, cioè acqua ossigenata, c'era dentro della tintura di iodio e un po' d'arsenico. Lo so che chi aveva piorea, quelle cose lì, si incollavano i denti e me l'ha sempre curati così. Ma diventavano tutti denti rossi con la tintura di iodio? No, c'era l'acqua ossigenata apposta perché non diventava. E l'arsenico non è un veleno? Sì, ma con dosaggi chimici diventa. Chi soffre di epilessia, ad esempio, prende delle piccole pillole di arsenico e le passa. Meno, questo è quello che mi ha insegnato il mio grande vecchio, che quando mi chiamava mi parlava in tedesco. Ero nato nel 1999 a Innsbruck e è morto nel 2000, il giorno di Capodanno, per indigestione. Vabbè, è morto bene, ha chiuso il millennio, con una bella mangiata. Avevamo una cameriera di Pesaro che, insomma, a un certo momento il nonno, ancora arzillo, ci ha dato due colpi e si figuri, mia nonna, mia madre, Bacchettone, Zadda Rosari, l'hanno messa alla porta. Ma quando hanno aperto il testamento l'aveva comprato la casa a Pesaro, si è scoperto che aveva un figlio illegittimo e, insomma, aveva combinato di tutti i colori. Quanti anni aveva la cameriera? Lui ne aveva 100 quasi, la cameriera quanti ne aveva? Avrà avuto 60. santa, Cesira si chiamava. Vabbè, una bella ragazzotta, per lui era una bella ragazzotta. Era un metro, come mi guardi, io sono 1,90 m, peso 84 kg, ho fatto 15 anni di sport. Mio nonno, pensi che mi aveva, c'avevo la giardinetta in giardino, me la lasciava usare, ci ho dato tante di quelle botte. E si incazzavano tutti e lui diceva, ma tanto devi imparare a guidare, meglio che picchi qui che fuori. E quando aveva la mania che tutti i resti li metteva dentro dei sacchetti, monete da 100 lire, 200, 500, si figuri, io ragazzino era l'unico che mi permetteva di entrare nel suo studio faraonico, c'aveva la libreria con le scale, io andavo a vedere di tutto, e le fregavo sti soldi. Allora un giorno mi ha chiamato e mi ha detto in tedesco, poi quando si incazzava veramente mi parlava in veneto, e mi ha detto che ero un ladro e un deficiente. E due o tre volte ho negato, poi ho ammesso e mi ha spiegato perché mi diceva ladro e deficiente. Ladro perché me ne assoluto, sai perché io me ne accorgo? Perché lì peso, se ne manca un netto, sei te, puteo, mi diceva. Ah, pesava il salvadanaio. E pesava le monete, pensi che mania. Vabbè, però. E quindi la cameriera come se ne sono accorti però del rapporto ancillare? Se ne sono accorti perché non so come, sai, io all'epoca avevo un ragazzino, ma si vede che la cosa perdurava. E niente, lui aveva le sue manie, i cani, la caccia, mi ha portato per la prima volta in aereo in Sardegna, da Pisa, non si chiamava nemmeno ancora nemmeno Alib Italia, nemmeno ancora Ati, caccia al muflone. Ma le ha dato mai qualche consiglio sulla gestione del mondo femminile? Cioè, di donne parlavate col nonno? Visto? Sì, nonno, volevo una grappetta e poi che vomiti, ma per me la faceva assaggiare. Due tiri di sigaro, sì. E poi mi proteggeva sempre perché io, fregandogli sti soldi, si figuri, da una scuola che era il Vittorio Emanuele, proprio sull'Angiporto dei Carugi Genovesi, all'epoca c'era più puttane che portuali, e andavamo, figuri. Poi quando mi mandava dalla sua azienda, che fondevano loro per fare i retinati, cose. Poi lui aveva le prime resine, fare le corone, e questi ebrei poi mi restituivano la polvere, io andavo a vendermela, si figuri, un mezzetto di polvere d'oro a quell'epoca lì che la pagavano 8-10 mila lire al grammo. Ah, quindi prendeva la polvere d'oro degli impianti? Mia nonna albero degli impianti. Da puttana, mi chiamava, come il nonno, e lui lo sapeva, mi proteggeva, e insomma, questi soldi qui, una volta sono andato in un posto dove un po' volgare, ma le ho raccolto, c'era una che era uscita dai casini, vecchia, che però faceva dei lavori, dottore, incredibili, e poi noi andavamo in gruppo ragazzine, ci ho dato 10.000 lire, che fregate sempre al donno. E questa mi ha detto, pensi la morale che oggi non esiste più, se te mi spieghi dove l'hai presi, le faccio scopare tutti, se no te restituisco i soldi. Ah, non accettava denaro, che immaginava che voi eravate ragazzi piccoli e l'avete rubato in casa, era sicuro per lei. Sì. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. C'era, insomma, i casini avevano chiuso per modo di dire, ma c'era tante allegre signorine, pensi che da tutto l'Angiporto c'era delle donne di babietà, veramente, una cosa incredibile, che facevano scopare la gente sotto i camion, no? E affittavano il camion all'autista. Genova è come Napoli sotto certi aspetti. Lo sa che un giorno passavo a Napoli e vedo una coda alle 11 di sera, andavo verso Lucrino, Bacco, Via Baia, io adoro quella zona lì di Napoli, Campi Flegrei, e c'era un falò con scritto qui puttane vere, perché dall'altra parte erano arrivati i primi brasiliani, no? Ah. E niente, poi una cosa che volevo dire, lei un giorno mi ha chiesto così erano le fonti di mio guadagno, non so, la fonte più grossa di guadagno ce l'ho ancora adesso in piccola parte, ce l'ho in Indonesia. Cos'è? Dove? E niente, spedì forniscono dalle aziende francesi le coscette di rana surgelate. Ah, in Indonesia ci sono delle rane buone per le cosce di rana? Cioè, guardi, c'è delle strade che quando passano non si immagina nemmeno. E le spelliamo, le sconfezioniamo, le sterilizziamo e le spedisco in Francia. Solo cosce, il resto la rana si butta? No, fatte fritte, che ci vuole l'olio di mandorla, oppure fatte, se lei mangia un risotto di rana, se va nell'oltretopo arese è un piatto che trova ancora oggi, Ma tutte forma di rana ancora sono fritte oppure cambia forma? No, solo le cosce, le coscette, tutto il resto viene buttato via perché non è commestibile, cioè è cattivo. Quindi dall'Indonesia vengono delle coscione di rana, saranno grandi come quelle sì, di pollo? Sì, vengono anche le lumache, le coccinelle. Le coccinelle cosa ci si fa con le coccinelle? Le coccinelle vanno alla Campari. Ah, cioè il colore del Campari è fatto con la coccinella? Sì, hanno cercato di copiarlo tutti il Campari, ma non c'è riuscito nemmeno i napoletani. Quindi quella specie di arancione del Campari è fatto con le coccinelle? Sì, ci fanno anche con gli scarpi, lo mescano con lo zafferano. Io sono stato uno dei primi 500 esseri umani che sono stato a Komodo, con mia figlia che aveva 4 anni, che voleva vedere i lucertoloni, come chiamava all'epoca. Il drago di Komodo? Sì, il varano. Ma sono terribili da vedere. Io ne ho visti di quelli che erano 5-6 metri. Poi non hanno denti, strappano il cibo e si mangiano tra di loro. Sono dei nuotatori pazzeschi, dicono che sono venuti fino dalla Papua Guinea indonesiana, dove sono andato a fare una visita con un antropologo australiano, perché c'è la Papua Guinea indonesiana che confina con la Papua Guinea australiana. Da una parte sono pigmei, dall'altra invece sono giganti, 48 di scarpe con dei sessi che fanno paura, quelli che hanno il tubero, il boomerang. Dall'altra parte invece sono tutti piccolini, sono 5 milioni di persone, e c'è una zona dove c'è stato anche il Papa che si chiama Suirian, dove nasce, è l'unico posto al mondo dopo la Polinesia, nascono 9 uomini e una donna, si figuri, questa qui è oggetto di idolatria addirittura. Il posto più bello al mondo che ho visto in Indonesia sono le Molucche, sono isole dove pensi il governo indonesiano ha mandato 7-8 milioni di persone decentrate dalle giungle, dal Borneo. E da dove c'è il pirataggio, no? Ah, certo. Qui non conoscono nemmeno la rupia di carta, c'è ancora l'interscambio e le monete. E anche lì sono stato diversi mesi perché ero curioso. E lì le donne sono formidabili perché sono proprio creature destinate all'uomo. E c'è un... veramente le fanno i massaggi, non si può, un rapporto orale non esiste perché le dicono che con la bocca mangiano e masticano il cibo per i bambini. E lì ho fatto un po' di beneficenza perché c'erano dei bambini che sembravano usciti dalla pubblicità di Benetton e c'hanno un labbro leporino, e se riesco una decina all'anno li faccio curare a Singapore, perché c'era una ragazzina indonesiana. Ma perché sono diffuse molto il labbro leporino da quelle parti? Come mai? Non lo so, però è una malformazione che comune in tutto l'est asiatico, è ricorrente. E lei si è preoccupato di salvarne qualcuno, cioè di farne operare? Ma qualcuno? Perché guadagnavo tanti di quei soldi di Indonesia che mi potevo permettere di essere un piccolo sultano. E allora vedere sti bambini che mi stavano a guardare, che le raccontavo, che le regalavo i pennarelli, cose. Questa bambina che non mi ha scritto, cioè, guardi, l'ho incorniciata sta cartolina, senza francobollo perché non si vede, che non c'erano i soldi, però non era recapitata lo stesso. Adesso se vieni in Indonesia ti posso baciare, l'ha detto. È bellissima, ricordo che è il più bel ricordo che mi porto dietro, di questi occhi e docciola di questa ragazzina che era di una bellezza assurda, sono i bambini e i vecchi di Indonesia. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va, non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. aspetta, la cosa più buffa io l'ho vissuta su un aereo, perché 300 donne che andavano a Manaus a fare le pute del Parigi, come le chiamano. Da dove? Da dove partivano? Partivano dalla lagoa di Rio, tutte, due o tre aerei al giorno, vanno giù, c'è il Galimperos lì e sostituiscono le colleghe. Ah, c'è proprio un charter di prostitute? Sì. Ma se dovesse fare una valutazione, visto che lei ha girato tutto il mondo, ha conosciuto donne di tutto il mondo, quale sarebbe la classifica? Tenendo conto di tutte le caratteristiche. Le donne? È la donna che preferisco è quella che mi fa perdere poco tempo, mi coccola e me la dà quando mi fa piacere, ma questo è così. Ma questo in assoluto vale per qualunque paese? Vale per tutti, ecco, dal luogo comune scontato. Amo, nei miei ricordi da uomo, ci sono donne dei villaggi, quelle che si lavano i capelli col cocco, con l'olio di cocco, quelle che sembrano delle regine senza avere niente, con un pareo, che hanno un orgoglio femminile incredibile, che si inchinano dopo un rapporto sessuale, ma non per servilismo, non sono servili, servizievoli sì, ma servili no. Quelle che di sesso sono nata per far l'amore, va detto Uva. Quindi non hanno diciamo, tutti i tabù, quei vincoli, quei pudori, quelle cose che le nostre donne ne hanno fatto mercato di tutti, dove non credono, dove hanno uno sviscevata maternità, dove veramente rispettano i vecchi e soprattutto l'uomo, no? L'uomo che certamente avere dei rapporti con, sono al di fuori del mondo, io ne ho portato una a Roma e voleva vedere Roma al Papa, dopo 15 giorni l'ho rimessa in aereo, l'ho rispedita nella sua isola di Flores perché mi stava morendo a Roma. Ma anche gli uomini però devono essere all'altezza di queste donne, perché noi diciamo sempre di donne che hanno un concetto Dai, alto dell'uomo. Devo parlare dell'Indonesia, il mondo musulmano io lo odio, il mondo induista no, dove c'è l'induismo c'è un'altra, c'è un po' di filosofia di Gandhi, ecco. Oltre alla reincarnazione c'è come religione, però tollerano tutto, non sono bacchettoni, non gliene frega niente, l'omosessualità è una condizione che hanno anche gli animali, le rispondono così, ha capito? Cioè non gliene importa niente, non si fanno problemi. Niente, pensi che un giorno una ragazza mi ha portato, avevo dei cavalli, io ho sempre avuto la Maria dei cavalli come mia nonna, e era nato un puledrino che la madre lo scacciava a calci proprio, no? E allora sono andato al solito medico australiano veterinario, mi è venuto a vedere, lo sa perché la madre lo scacciava, lo mandava via? Perché? Era nato cieco. Ah, beh, se n'era accorta, certo. Ma pensi come l'istinto della cavalla, diciamo, come se n'era accorta, io non so. Noi non ce ne eravamo accorti, no? Cioè, le faccio questi esempi perché io del sesso ne ho sempre fatto una cultura e un pudore, credo che sia tutto libero, che le cose le abbiamo complicate, l'essere umano, non, se lei prende, c'è dei posti dove non sanno cosa è Dio, eppure si fa una domanda a chi ha creato il cielo, l'acqua, il sole, ecco. C'è una pulizia mentale diversa, cioè non sono inquinati. Qui invece penso che la religione cattolica, come una volta l'ho detto, che la razza umana più brutta siamo noi bianchi. E poi... Beh, lei ha viaggiato anche in paesi occidentali, quindi ha potuto fare le differenze. Ah, sì, ma non a parte che io sono un fedifrago, ho fatto e finito per curiosità, ma non è quel fatto di tante donne, ho avuto anche donne conosciute, famose, ma non mi hanno lasciato niente, dottore. Va bene, senta, io sono quasi arrivato, io direi che per oggi ci siamo detti un sacco di cose, spero di rincontrarla al prossimo giro, tanto io, grazie. Sempre con piacere, dottore. Io parlo male, purtroppo vedo tutta questa bocca gonfia, mi hanno messo un perno nella mascella. Bene, non faccia una cosa, lo sciacquo acqua, sale, tiepido, oppure si mastichi un goccino di chiodo di garofano. Adesso prendo l'antibiotico mi hanno dato, piglierò anche ma il chiodo di garofano se lo usa vedrà che oltre che a fargli l'alito buono ne leva l'infiammazione. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Borneo, lì c'era veramente qualcosa di pulito, di bello, di sentimentale, cioè io mano per mano qui in Europa non ci vado, ma non perché mi vergogno, ma non sono mai stato seduto su uno scoglio a guardare le stelle con una ragazza, laggiù lo facevo, mi faceva piacere che mi grattassero la testa, ma addormentavo, capito? Poi queste donne hanno un culto del corpo, della pulizia, che è una cosa incredibile. C'è stato un periodo dove nel Borneo defogliavano, insomma facevano casi di tutti i tipi, e governo indonesiano dava in affitto gli oranghi piccoli. E siccome avevo una grossa tenuta, un grosso giardino a Denpasar, sarebbe l'isola di Bali, me li sono portati. Ma lei deve vedere l'intelligenza di questi animali e la forza. Io ci facevo la lotta sul tappeto elastico perché mi divertivo, non mi ha mai fatto male. Certamente le tagliavo le unghie e le limavo, le ho limato i denti, ma lo sa che prendevano un cocco, lo spaccavano con le mani, il maschio che era 2 metri è diventato. Un giorno ho trovato sulla jeep che simulava di guidare, dovevo solo chiudere il bagno perché quando entrava dentro mi prendeva tutti i dentifrici e se li mangiava. Mangiava il dentifricio? E le piace, è bicarbonato, insomma poi sai i dentifrici alla menta, cioè, la fragola, se li mangiava di tutti. Voleva lo zampirone alla sera. Come faceva a chiederlo lo zampirone? Perché se non li lava, li pulisce, li fa tutti, io l'ho dovuto vaccinare contro il morbillo e tutto il resto perché prendono le malattie dell'uomo, Pensi che mi veniva dietro, la femmina mi spulciava la testa. Un giorno c'avevo un foruncoletto, una cistina piccola, me l'ha strappata a male, però non lo faceva per cattiveria, era il suo istinto. Venivano a salutare, prendeva mia figlia, 3 anni e mezzo, la portavano a spasso. Un giorno me l'ha portata su una palla di 12 metri, io sotto, vieni giù mio mano, vieni giù, svastica. Poi è venuto giù. Avevo messo un cartello dal cancello di questa tenuta che le donne che avessero le mensazioni non entrassero perché correva dietro, guai. Sentiva la donna. Mamma mia, difatti nei tempi induisti e musulmani c'è pieno di scimmie per quel motivo lì, le donne guai se entrano. Pensa a te, questa è una cosa che nessuno ha mai detto, nessuno ha mai scritto. Ma basta starci di mezzo e vedere tante cose. Pensi che sono stato in un posto per caso e ho trovato la misurazione del tempo di un orologio fatto con le pietre che teneva conto dell'anno bisestile, di tutto. C'era un professore che si chiama professor del Turco, era un ginecologo che andava in Indonesia subito dopo la guerra, andava a studiare tutte queste cose qua, me l'ha fatte vedere, incredibili. Vi ho detto, c'è una zona dove c'hanno gli indonesiani selvaggi, dei Toraja, erano diventati molto ricchi con la regione lì perché c'era il silicio, no? Che si usava come conduttore termico per i computer una volta, adesso è stato sostituito chimicamente, l'hanno rifatto con dei clip artificiali. E loro hanno le batterie, hanno fatto un sacco di cose con sto silicio, che è con una pietra conduttore termico vulcanico sarebbe. Io sono stato per 25 anni in mezzo ai coquers. Io i miei soldi li ho fatti con la droga, ma non perché spacciavo la droga e la vendevo, perché mi dicevano vai lì, vai là, porta il messaggio. Questa gente era gente che mi dava biglietto di prima classe, $10,000, così come fossero un souvenir. E per fare cosa? Per fare quello che si chiamavano i pizzini. A portare messaggi? Sì, messaggi, niente. Venivo da lei e le dicevo, dica in radio che domani mattina c'è l'eclisse. Non è vero. Ma tipo Radio Londra, dei messaggi in codice. Sì, sì, ecco. E dov'era allora, esattamente questo posto? È un lato oscuro della mia vita che mi ha dato un guadagno immenso. Mi ha fatto conoscere gente incredibile, da Andreotti a quelli che gli scemi che oggi coltivano la politica. Lo sa che uno della malavita, della droga pesante, mi ha detto che l'America finanziava dei finanziamenti sulla droga per mandarli in Russia, per destabilizzare. Oltre a portare i pizzini in giro, che vita faceva in questo posto? Ma la bella vita, perché quando i soldi cadono così facili, cosa vuole? Io ho cercato di darli giustamente a chi aveva più bisogno di me, però è facile. Io mi sono comprato 46 macchine tra Porsche, Ferrari e tutto il resto. Per me ogni 6 mesi, cioè, sono solo io e i marittimi che facevano queste cose, capito? E poi pensi che io ho vissuto l'epoca del dollaro a 2200 lire. Io ho comprato 6 appartamenti a mia madre e a mia nonna. I soldi mi entravano dal... Non sapevo nemmeno più cosa faceva, capito? Ma era un'attività ai limiti, diciamo, ai limiti della legalità, o sbaglio? No, io certe cose non ho mai fatte. Ah, quindi era un'attività tranquilla? Lei mi dice, non è che voglio proteggermi, dottore. No, ma... Lei mi dice, vai lì e fai questo, perché sei capace di farlo, io vado e lo faccio. Ma mettere mani nella merda non ce l'ho mai messa. Quindi, cioè, lei sapeva usare al momento giusto l'occasione giusta, è un uomo d'affari. Sì, no, chiamiamolo, la ringrazio per uomo d'affari. Io ero un portaborse di lusso della malavita boliviana, peruviana e venezuelana. Mi dicevano, vai a parlare a quello là di appalti, io andavo là e dicevo quello che mi avevano detto. Ne uscivo pieno di soldi, tranquillo, non violavo niente e nessuno. Chi lo voleva fare lo faceva, chi non lo voleva fare se ne stava a casa sua. Ha mai avuto paura per la sua vita in tutte queste sue avventure? Sì, perché io la Nangreta, la Sacra Corona Unita, la Sacra Corona e tutto col sistema, c'è un calendario, dottore, dove se io e lei siamo scomodi ci mettono la data di nascita e quella di morte. La sua l'hanno scritta da qualche parte? Fortunatamente sono ancora qui a parlargli, no. Quindi, vabbè, adesso a parte, diciamo, le minacce, ma momenti di pericolo, no, di rischio? No, non mi ha mai minacciato nessuno, mio dottore. Mai, mai nessuno. Le giuro che quell'ambiente lì è di una signorilità incredibile. Non faccia sgarri, perché se chi sgarra... E sgarrare vuol dire, c'ho 10, voglio 100, e lì è lo sgarro. Le danno 10, vuol dire che hanno valutato che lei è un uomo che vale 10. A parte questo, diciamo, nei viaggi, nelle avventure, momenti di pericolo ci sono mai stati? Sì, mi hanno sparato 2 o 3 volte. Non mi dice niente, chi le ha sparato? Mi hanno sparato dei piccoli clan. E quindi? D'accordo, ma vede, io un giorno che mi serviva veramente una cifra abominevole per l'epoca, era 72-74, un boss di Napoli che mi vuole bene, che l'ho battezzato anche 2 figli, ma ha detto, ma io te li do. Stasera arrivavano scatole di Marlboro piene di soldi e li contavano con le macchinette. Io all'epoca avevo sposato una Fabrocini Caltagirone, l'attività più piccola era l'industria dell'acquamarcia e tutto il resto, soldi da tutte le parti. Mi ha detto, fai droga? No. Gli ho detto no, era una bugia, io droga non ne faccio, però sapevo dove a Napoli si può trovare una quantità. Sapevo tutto, fai i cavalli, no, fai il gioco, fai quella. Ho detto, allora come poi me i rendi? E io poi te devo solo sparare. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E sono uscito una mattina alle 6:30, offerto cappuccino a Santa Chiara, con 50 milioni in tasca, dottore, che mi ha regalato un boss. Sono uscito e io avevo la tabaccaia che mi forniva i Davidoff. Dottore, mi ha insegnati lei, 50 euro, e ne andavo 100. Un giorno una che lo sostituiva mi ha taroccato, mi ha chiamato per strada, mi ha detto, a questo qui non devi fare culo. Io ho conosciuto dei boss della malavita che li farei ai presidenti della Repubblica, perché sanno gestire, amministrare e comandare. ma comandare nel senso buono. Prima volta ti avviso, la seconda ti insegno che ti ho avvisato, la terza ti faccio fuori, eh? Sai cosa mi ha detto? Lo sa perché a Napoli si dice il caffone? Perché no. Quando nell'epoca di Masaniello arrivava la gente con gli armenti, insomma gli ortaggi e tutto il resto, arrivava alle porte e dovevano portarli al mercato, e questi, non sapendo, nella città si perdevano con la fune, fune, ti prendo con la fune e ti porto al centro del mercato. Ecco. È un cicerone. Come con la cavezza. Dottore, io ho fatto un'università che non la fa nessuno, quella della vita. Ho imparato dagli indigeni, ho imparato. Io sono, guardi, io ho visto delle cose, guardi, io sono entrato in un cavò della malavita boliviana, ecuadoriana, dove, insomma, a uno le è caduto un pacco di dollari sul naso e si è rotto il naso, eh. C'è una cosa brutta che sta entrando in questo mondo della droga, il Messico. E che succede in Messico? Niente, li fanno delle mattanze proprio. Un uomo non conta niente, niente. Lei è stato in Messico, sì? Sono stato, sì, pure io ero amico dell'Augusta Vacca, figure di raggio. Ah, della contessa. Ma lo conoscevo perché io ero molto amico di quello lì degli elicotteri, Augusta, che veniva a Portofino. Sono amico di avvocati di diritto internazionale che hanno fatto delle cose da mettere in galera per 50 anni di professione. Vabbè, qui sono avvocati. Parlava di Madre Teresa di Calcutta, io l'ho conosciuta a Macerata, con le suore loretane, dove suore di convento, di clausura, lo sa che tutte le ostie che vanno nel mondo le fanno lì a Macerata? Ah, sì. Le mettono nelle confezioni tipo le patatine e spediscono in tutto il mondo. Lei, Madre Teresa, cosa le ha detto quando ci ha parlato? Mi ha regalato, guardi, ce l'ho qui, ho fatto un quadretto, glielo leggo perché lei si merita di sentirlo. Mi ha scritto: la vita è un'opportunità, trainene profitto, la vita è bellezza, ammirala. La vita è un sogno, realizzalo. La vita è una sfida, accettala. La vita è un gioco, giocatela. La vita è dolore, superalo. La vita è un'avventura, osala. La vita è un canto, cantatela. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è la vita, amala e preservala. Poi per lei l'ha scritto, poi per lei personalmente? No, ma mi ha dato sto cuore dritto perché io le davo 50.000 dollari tutti gli anni. Vabbè. Beh, bella offerta. Ma guardi, io ho guadagnato delle cifre da far paura, eh. Beato lei. Ma, sì. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Lo sa dove andavo io sempre a farmi un Natale, un Capodanno, quando, e adesso è anni che non ci vado più, saranno tutti morti, a Scapoli. E dov'è? Ma dov'è? No. Dove fanno le zampogne. Ah, il paese del Zampogne. Perché io un giorno a Napoli, che c'ho una casa che era di mia moglie, mi sono arrivati questi zampognari e lo sai cosa mi hanno fatto? La novena, adesso faceva un freddo caro, una giornata terribile, sono andato a mangiare tutti, ma mi hanno fatto la novena, tutto il resto, e poi sono andato a trovare a Scapoli, che lì Irpigna, un freddo, c'è cioè un bar e 200 abitanti, ma della gente così sana che i figli ce l'hanno a Boston, cosa, della gente così bella, pulita, linda, che sanno fare le zampogne ancora con il ventre della capra. Ma guardi, una cosa è san suonare, si passano questa tradizione, adesso sono tutti morti, perché parlo di 20 anni fa. Ma qual è il paese in cui ha vissuto di più? Di più Indonesia. Per più? Indonesia, quanti anni c'è stato? Ci sono ancora adesso, dottore, io ho il passaporto diplomatico dell'indonesiano. Quindi è il paese che più le piace? Io ho fatto il pilota per 8 anni per la Garuda, Indonesia Airlines. Insegnavo a chi oggi non è più pilota, ingegnere avionico, a portare il 747, perché l'aereo che io adoro, lo chiamo il Jumbo del cielo. E lei pilota questi tipi di aereo? pilota il 747. Io ho cominciato con l'F-104 militare e sono finito con il Jumbo 747 Combi e 747 Special. E facevo le rotte Amsterdam, Giacarta, insomma. Per quanto tempo ha fatto il pilota? 8 anni. È una delle tante attività, però non è il suo lavoro principale. No, l'ho fatto per hobby, è sempre stata la mia passione. Io, se mi davano le ali di Icaro, mi sarei buttato 6 anni dal terrazzo. Quando è su un aereo, dottore, guardi, quando vede la Polinesia, l'Indonesia, l'Oceano Indiano, Reunion, tutto sotto di lei, questa onnipotenza di questo mezzo che è mostruoso, veramente. Solo che ormai è diventato talmente mostruoso da superare l'uomo. Ancora lei potrebbe pilotare oppure? No, ho dovuto rendere il brevetto per alcol e droga. Ah, per alcol e droga? Vabbè. Sì, ma me l'ha fermato. A sono scelte, sono scelte. La mia carriera è finita lì. Dove è successo questo? È successo per una spiata di gente invidiosa. Ma però meglio, scusi, rischiava. Perché all'epoca. Non rischiava lei. Non sapendo più come portare la cocaina in Europa, io le avevo suggerito di metterla nelle bustine dell'Eridania, solo che su un volo che doveva venire a Roma, Amsterdam, Bruxelles, non mi ricordo più, qualche bustina è finita ai passeggeri, che non dico cosa è successo. L'hanno messa nel caffè al posto dello zucchero? Ah sì, ma sa, 50 kg a pacchetto, si fa presto a fare. E questi hanno preso il caffè con la cocaina, che è successo? No, le hostess, non sapendo, hanno aperto il pacco sbagliato. E cosa vuole che sia successo? Se lei si beve un caffè con un grammo di cocaina, se ne accorge dopo 10 minuti cosa le succede. Qui tutti i passeggeri fuori di testa. Ma sì, ma guardi che dall'Iran, quei paesi lì, i tappeti sono imbottiti di coca, poi li disciolgono. È una cosa mostruosa quello che gira nella... Le dico che il film di Scarfei è Il bambino dell'asilo della cocaina, perché c'è, gira, a parte i capitali mostruosi, gente che, gliel'ho detto, diamanti di tutto, ma lo sai che io facevo i soldi andando ad Amsterdam con una lattina di Coca-Cola, mi mettevo dentro 20, 40, 50, 100 grammi di pietre preziose, passavo la dogana, arrivavo a Amsterdam, aprivo la lattina, la facevo aprire e mi vendevo i diamanti, prendevo 350.000 euro, oggi, all'epoca li prendevo in dollari, in valuta nazionale, niente, andavo in una banca, li depositavano. Io non so nemmeno più i conti che ho in giro, lo sa? Vabbè, è straricco, ma tutti questi soldi che ci fa? No, non sono straricco, io non butto via i soldi. Io tutto cercherò di radunare tutto e di darle ai bambini che stanno male. Quelli lì... Se li dà a una buona causa. Beh, senta, per oggi facciamo che ci siamo detti un sacco di cose. Bene. Va bene, a presto allora, buon viaggio. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.